Una coppia insolita. Le gelate invernali fecero morire di polmonite diverse sing-song girl nel quartiere cinese, senza che Tao Qian riuscisse a salvarle. Un paio di volte lo chiamarono quando erano ancora in vita e riuscì a portarsele via, ma vennero meno tra le sue braccia poche ore dopo, in preda ai deliri della febbre. In quel periodo, i discreti tentacoli della sua compassione si estendevano in lungo e in largo in Nord America, da San Francisco a New York, dal Rio Grande al Canada. Ma uno sforzo tanto smisurato non era che un grano di sale in quell'oceano di miseria. La sua attività di medico era fiorente e quanto riusciva a risparmiare o a mettere da parte grazie alla generosità di qualche cliente facoltoso veniva destinato all'acquisto alle aste delle ragazzine più giovani. In quel microcosmo era già noto, godeva della reputazione di degenerato. Non avevano visto uscire viva nessuna delle ragazzine che acquistava per i suoi esperimenti, come lui sosteneva, ma a nessuno interessava ciò che succedeva dietro la sua porta. Come Jong Yi era il migliore e finché non era causa di scandali e si limitava a quelle creature, che comunque erano poco più che animali, l'avrebbero lasciato in pace. Alle domande curiose, il suo leale aiutante, l'unico che avrebbe potuto fornire qualche informazione, si limitava a spiegare che le straordinarie conoscenze del suo datore di lavoro, così utili per i pazienti, derivavano dai suoi misteriosi esperimenti. A quell'epoca, Tao Qian aveva traslocato in una bella casa tra due edifici al limite di Chinatown, a pochi isolati dalla Piazza dell'Unione, dove aveva trasferito la sua clinica. Dispensava i suoi rimedi e nascondeva le ragazze fino a quando erano in grado di viaggiare. Eliza si era impossessata dei rudimenti di cinese che le consentivano una comunicazione minima, il resto lo improvvisava con pantomime, disegni e qualche parola d'inglese. Lo sforzo valeva la pena, meglio così che non farsi passare per il fratello sordomuto del dottore. Non sapeva né scrivere né leggere il cinese, ma riconosceva le medicine dall'odore e per essere più sicura segnava le boccette con un codice di sua invenzione. C'era sempre un buon numero di pazienti in attesa del loro turno. Per gli aghi d'oro, le erbe miracolose e la consolazione della voce di Tao Qian. Più di uno si domandava come quell'uomo così saggio e affabile potesse essere la stessa persona che collezionava cadaveri e concubine infantili, ma dato che i suoi vizi non si conoscevano con certezza, la comunità gli portava rispetto. Non aveva amici, era vero, ma nemmeno nemici. Il suo buon nome usciva dai confini di Chinatown ed erano soliti consultarlo anche alcuni dottori americani quando il loro sapere si rivelava insufficiente, sempre in gran segreto, perché sarebbe stata una pubblica umiliazione ammettere che un celestiale avesse qualcosa da insegnare loro. Fu così che ebbe modo di curare alcuni importanti personaggi della città e di conoscere la celebre Hathoi. La donna lo fece chiamare quando venne a sapere che aveva guarito la moglie di un giudice. Soffriva di uno scricchiolio di nacchere ai polmoni che a volte minacciava di soffocarla. La prima reazione di Tao fu di rifiutarsi, ma poi fu vinto dalla curiosità di vederla da vicino e di verificare la leggenda che la circondava. Ai suoi occhi era una vipera, una nemica personale, sapendo ciò che Hathoi significava per lui, Eliza gli mise nella valigetta arsenico sufficiente per far fuori un paio di buoi. Metti caso che, spiegò. Che cosa? Boh, poniamo che sia molto ammalata, non vorrai vederla soffrire, vero? A volte bisogna aiutare a morire. Tao Qian rise di gusto e non tolse la boccetta dalla valigetta. Hathoi lo ricevette in una di quelle sue pensioni, tra virgolette, di lusso in cui il cliente pagava $1.000 ad un appuntamento, ma se ne andava sempre soddisfatto. E poi, come affermava Hathoi, se ha bisogno di domandare il prezzo, questo posto non fa per lei. Una cameriera nera in divisa e inamidata gli aprì la porta e lo condusse attraverso varie sale dove passeggiavano belle ragazze vestite di seta. Rispetto alle loro sorelle meno fortunate, vivevano come principesse, mangiavano 3 volte al giorno e facevano il bagno quotidianamente. La casa, un vero e proprio museo di antichità cinesi e di diavolerie americane, sapeva di tabacco, profumi rancidi e polvere. Erano le 3 del pomeriggio, ma le spesse tende rimanevano chiuse in quelle stanze e non entrava mai un soffio d'aria fresca. Hathoi lo ricevette in un piccolo studiolo zeppo di mobili e di gabbie di uccelli. Era più piccola, giovane e bella di quanto immaginasse. Si era truccata con cura, ma non portava gioielli. Vestiva con semplicità e non usava le unghie lunghe, segno di fortuna e di ozio. Fu attratto dai suoi piedi minuscoli ricoperti da scarpine bianche. Lo sguardo era penetrante e duro, ma la sua voce carezzevole gli ricordò Lin. «Maledetta!» sospirò Tao Qian, sconfitto alla prima parola. La visitò con fare impassibile, senza rivelare la sua ripugnanza né il turbamento, senza sapere cosa dirle, perché rimproverarle il suo traffico non solo era inutile, ma anche pericoloso e poteva richiamare l'attenzione sulle sue attività. Le prescrisse Mao Huang per l'asma e altri rimedi per raffreddare il fegato, avvertendola seccamente che finché viveva rinchiusa dietro a quei tendaggi a fumare tabacco e oppio, i suoi polmoni avrebbero continuato a gemere. La tentazione di lasciarle il veleno con l'istruzione di assumerne un cucchiaio al giorno lo sfiorò come una farfalla notturna e quell'istante di dubbio che lo disorientò lo fece rabbrividire, perché fino a quel momento aveva creduto che l'ira non avrebbe mai portato a uccidere. Uscì di fretta, certo che, visti i suoi modi bruschi, la donna non l'avrebbe fatto cercare una seconda volta. «E allora?» chiese Liza al suo ritorno. «Niente. Come niente? Non ha nemmeno un pizzico di tubercolosi, non morirà?» «Tutti moriremo, lei morirà vecchia, forte come un bufalo, come tutti i malvagi». Dal canto suo Eliza sapeva di trovarsi davanti a un bivio decisivo del suo cammino e che la direzione scelta avrebbe determinato il corso della sua esistenza. Tao Qian aveva ragione, doveva darsi una scadenza. Ormai non poteva più ignorare il sospetto di essersi innamorata dell'amore e di trovarsi intrappolata nello scompiglio di una passione da leggenda priva di alcun contatto con la realtà. Cercava di ricordare i sentimenti che l'avevano spinta a imbarcarsi in quella terribile avventura, ma non ci riusciva. La donna in cui si era trasformata aveva ben poco a che fare con la ragazzina in preda alla follia di prima. Valparaiso e la stanza degli armadi apparteneva a un'altra epoca, a un mondo che stava svanendo nella bruma. Si domandava mille volte perché avesse tanto bramato di appartenere con il corpo e con lo spirito a Joaquin Andieta, se nella realtà non si era mai sentita completamente felice tra le sue braccia, e l'unica spiegazione che riusciva a darsi era che si trattava del primo amore. Quando si era presentato a scaricare la merce a casa Somers, lei era già predisposta e al resto ci aveva pensato l'istinto. Aveva semplicemente obbedito al più potente e antico richiamo. Ma tutto ciò era successo anni luce prima, a 7.000 miglia di distanza. Chi lei fosse e che cosa avesse visto in lui non era in grado di dirlo, ma sapeva invece che il suo cuore ora batteva in altre direzioni. Non solo si era stancata di cercarlo, ma in fondo preferiva non trovarlo, anche se non poteva continuare a vivere nel turbamento dell'incertezza. Aveva bisogno di mettere un punto finale a questa storia per poter ripartire da zero con un nuovo amore. Verso la fine di novembre capì di non poter più reggere l'inquietudine e, senza farne parola a Tao Qian, si diresse al giornale per avere un colloquio con il celebre Jacob Fremont. La fecero accomodare nella sala della redazione in cui alle loro scrivanie lavoravano diversi giornalisti circondati da un disordine devastante. Le indicarono un piccolo ufficio dietro una porta vetri e in quella direzione Eliza si incamminò. Rimase in piedi di fronte al tavolo in attesa che quel gringo dalle basette rosse alzasse lo sguardo dalle sue carte. Era un uomo di mezza età, lentigginoso e dall'aroma di candela. Scriveva con la mano sinistra, con la fronte appoggiata alla destra. Non gli si vedeva il viso, ma in quel momento, sotto il profumo di cera d'api, Eliza avvertì un odore noto che le riportò alla memoria qualcosa di remoto ed impreciso dell'infanzia. Per annusarlo in modo dissimulato si chinò appena verso di lui, proprio nello stesso istante in cui il giornalista sollevò il capo. Sorpresi, rimasero a fissarsi a una distanza imbarazzante prima di indietreggiare. Nonostante gli anni, le lenti, le basette, l'abbigliamento da Yankee, lei lo riconobbe dall'odore. Era l'instancabile pretendente di Miss Rose, quell'inglese che partecipava puntualmente alle riunioni del mercoledì a Valparaiso. Paralizzata, non riuscì a scappare. «Cosa posso fare per te, ragazzo?» chiese Jacob Todd, togliendosi gli occhiali per pulirli con un fazzoletto. Il discorso che Eliza si era preparata le si cancellò dalla mente. Rimase a bocca aperta, con il cappello in mano, certa di essere stata riconosciuta, proprio come lei aveva riconosciuto lui, ma l'uomo si rimise con cura gli occhiali e ripeté la domanda, senza guardarla. «Sì, tratta di Joaquin Murrieta», balbettò con una voce così flautata come non l'era mai uscita. «Hai notizie del bandito?» si informò immediatamente il giornalista. No, no, anzi, volevo chiederle di lui, ho bisogno di vederlo. Hai un'area familiare, ragazzo, ci conosciamo per caso? Non credo, signore. Sei cileno? Sì. Qualche anno fa ho vissuto in Cile, bel paese. Perché vuoi vedere Morieta? È molto importante. Ho paura di non poterti aiutare, nessuno sa dove vive. Ma lei ha parlato con Joaquin Morieta? Sì, ma solo quando lui mi ha fatto chiamare. Si mette in contatto con me quando vuole che qualcuna delle sue imprese esca sul giornale. Non è affatto modesto. La fama gli piace. In quale lingua vi parlate? Ma il mio spagnolo è migliore del suo inglese. Mi dica, signore, il suo accento è cileno o messicano? Oh, non saprei dirlo. Ti ripeto, ragazzo, non posso aiutarti. Replicò il giornalista, alzandosi in piedi per mettere fine a quell'interrogatorio che iniziava a infastidirlo. Eliza si congedò rapidamente e lui rimase a riflettere con aria perplessa mentre la guardava allontanarsi nella confusione della redazione. Gli sembrava di conoscere quel ragazzo, ma non riusciva a fare mente locale. Diversi minuti dopo che il visitatore se n'era andato, gli venne in mente l'incarico affidatogli dal capitano John Somers e l'immagine dell'Eliza bambina passò come un lampo nella sua memoria. Fu allora che mise in relazione il nome del bandito con quello di Joaquin Andieta e capì perché lei lo cercava. Soffocò un grido e uscì di corsa per strada, ma la ragazza era sparita. Il lavoro più importante di Tau Chien e dell'Isa Somers si svolgeva di notte. Al buio si dedicavano ai corpi delle sfortunate che non erano riusciti a salvare e portavano le altre all'altro capo della città dai loro amici quaccheri. A una le bambine riemergevano dall'inferno per essere catapultate alla cieca in un'avventura senza ritorno. Perdevano la speranza di ritornare in Cina o di ricongiungersi con le loro famiglie. Alcune non avrebbero più parlato la loro lingua né visto visi della loro razza. Dovevano imparare un mestiere e lavorare duramente per il resto della loro vita, ma qualsiasi scenario era paradisiaco rispetto alla vita precedente. Le ragazze che Tao riusciva ad aggiudicarsi all'asta si adattavano meglio. Avevano viaggiato dentro alle casse ed erano state oggetto della lascivia e della brutalità dei marinai, ma non erano state spezzate in modo definitivo e mantenevano una certa capacità di redenzione. Le altre, riscattate all'ultimo momento dalla morte nell'ospedale, come lo chiamavano, erano destinate a non perdere più la paura che come una malattia del sangue le avrebbe consumate interiormente fino alla fine dei loro giorni. Tao Qian sperava che con il tempo imparassero perlomeno a sorridere di tanto in tanto. Non appena recuperavano le forze e comprendevano che non sarebbero mai più state obbligate a piegarsi a un uomo e che comunque avrebbero sempre vissuto in fuga, venivano condotte a casa degli amici abolizionisti appartenenti all'Underground Railroad, come veniva chiamata l'organizzazione clandestina impegnata a soccorrere gli schiavi evasi, alla quale appartenevano anche il fabbro James Morton e i suoi fratelli. Accoglievano i profughi provenienti dagli stati schiavisti e li aiutavano a stabilirsi in California, ma in questo caso dovevano operare in senso contrario, prelevando le bambine cinesi dalla California per portarle lontano dai trafficanti e dalle bande criminali, trovar loro un focolare e un modo per sopravvivere. I quaccheri si facevano carico dei rischi con fervore religioso, per loro si trattava di innocenti disonorate dalla cattiveria umana, una prova che Dio aveva messo sulla loro strada. Le ricevevano con tanto entusiasmo che spesso loro reagivano con violenza e terrore. Non erano capaci di ricevere affetto, ma la pazienza di quella brava gente a poco ne vinceva la resistenza. Insegnavano loro qualche frase indispensabile in inglese, spiegavano sommariamente le abitudini americane, mostravano una cartina affinché sapessero almeno dove si trovavano e cercavano di avviarle a qualche lavoro nell'attesa che arrivasse Babalù il cattivo a prenderle. Il gigante aveva finalmente trovato il modo migliore di fare buon uso dei suoi talenti. Era un viaggiatore instancabile, amava stare in piedi di notte e andava matto per l'avventura. Quando lo vedevano arrivare, le Sing Song Girls correvano spaventate a nascondersi e i loro angeli custodi dovevano dar fondo a una buona dose di persuasione per tranquillizzarle. Babalù aveva imparato una canzone in cinese e tre giochi di prestigio cui ricorreva per incantarle e mitigare lo spavento del primo incontro, ma per nessuna ragione rinunciava alle sue pelli di lupo, al cranio rapato, ai cerchi da filibustiere alle orecchie e al suo formidabile arsenale. Rimaneva con loro un paio di giorni e quando aveva convinto le sue pupille del fatto che non era un demonio e che non avrebbe cercato di divorarsele, di notte partiva con loro. Le distanze erano state calcolate con precisione per consentire loro di arrivare all'alba in un altro rifugio dove avrebbero riposato per il resto del giorno. Si muovevano a cavallo. Un carro era inutile perché buona parte del tragitto si percorreva in campo aperto, non sulle strade. Aveva scoperto che era molto più sicuro viaggiare al buio, sempre che ci si sapesse orientare, perché orsi, serpenti, fuorilegge e indiani dormivano, come faceva tutta l'umanità. Babalù le lasciava in salvo nelle mani di altri membri dell'estesa rete della libertà. Finivano in fattorie dell'Oregon, in lavanderie del Canada, in laboratori artigianali in Messico, altre trovavano un impiego come cameriere e non mancavano quelle che si sposavano. Tao Chien ed Eliza generalmente ricevevano loro notizie attraverso James Morton, che seguiva la pista di ogni fuggitivo riscattato dalla sua organizzazione. Di tanto in tanto ricevevano una busta da qualche sperduta località e aprendola trovavano un foglio di carta con un nome scarabocchiato, fiori secchi o un disegno e allora festeggiavano la salvezza di un'altra sing-song girl. A volte a Eliza toccava condividere per qualche giorno la sua camera con qualche bambina appena francata, ma nemmeno a loro rivelava di essere una donna. Solo Tao lo sapeva. La sua era la stanza migliore della casa, in fondo all'ambulatorio. Era un locale grande con due finestre che davano su un piccolo patio interno, in cui coltivavano le piante medicinali per l'ambulatorio e le erbe aromatiche da cucina. Spesso accarezzavano l'idea di trasferirsi in una casa più grande, con un vero giardino da godere, utile non solo a fini pratici, ma anche per il piacere della vista e per la felicità della memoria, un luogo in cui crescessero le più belle piante della Cina e del Cile e in cui ci fosse un pergolato sotto il quale sedersi a bere un tè di pomeriggio e a gustarsi lo spuntare del sole sulla baia di mattina. Tao Chien aveva notato l'impegno con cui Eliza cercava di trasformare la casa in un focolare domestico, la cura con cui puliva e teneva in ordine, la regolarità con cui collocava in ogni stanza piccoli mazzi di fiori freschi. Prima non aveva mai avuto modo di apprezzare tali finezze. Era cresciuto nella più totale povertà e nella casa del maestro di agopuntura si avvertiva la mancanza di una mano femminile che la trasformasse in una vera dimora. Helin era talmente fragile che le forze non le consentivano di occuparsi delle faccende domestiche. Eliza invece dimostrava di possedere l'istinto a nidificare, tipico degli uccelli. Investiva nella sistemazione della casa parte di ciò che guadagnava suonando il pianoforte un paio di sere alla settimana in un saloon e vendendo empanadas e torte nel quartiere cileno. Aveva così potuto comprare le tende, una tovaglia di damasco, i recipienti per la cucina, i piatti e i bicchieri di porcellana. Per lei le buone maniere cui era stata educata erano essenziali, trasformava l'unico pasto del giorno che condividevano in una cerimonia. Presentava i piatti con accuratezza e arrossiva di soddisfazione quando Tao si complimentava per le sue fatiche. I problemi quotidiani sembravano risolversi da soli, come se la notte qualche spirito generoso pulisse l'ambulatorio, aggiornasse gli archivi, entrasse con discrezione in camera di Tao per lavargli i vestiti, attaccargli i bottoni, spazzolare gli abiti e cambiare l'acqua alle rose sul suo tavolo. «Non coprirmi di attenzioni, Eliza!» «Ma mi avevi detto che i cinesi si aspettano di essere serviti dalle donne?» «Sì, in Cina, ma io non ho mai avuto questa fortuna, mi stai abituando male?» «È esattamente quel che si deve fare. Miss Rose diceva che per dominare un uomo bisogna abituarlo a vivere bene e quando si comporta male punirlo facendogli mancare i vizi». «Ma Miss Rose non era rimasta nubile. Per sua scelta, non per mancanza di pretendenti». «Io non ho intenzione di comportarmi male, ma dopo come farò a vivere da solo?» «Oh, non rimarrai mai da solo. Non sei proprio inguardabile. Ci sarà sempre una donna dai piedi grandi e dal brutto carattere disposta a sposarsi con te», replicò, e lui scoppiò a ridere felice. Tao aveva comprato mobili eleganti per la stanza di Eliza, l'unica della casa arredata con un certo lusso. Passeggiando insieme per Chinatown, lei si fermava sempre ad ammirare lo stile dei mobili tradizionali cinesi. «Sono molto belli, ma pesanti. Sovraccaricarli è un errore», diceva. Le aveva regalato un letto e un armadio di legno scuro, intagliato, e poi lei aveva scelto un tavolo, delle sedie e un paravento di bambù. Non aveva voluto un copriletto in seta di quelli che si usavano in Cina e ne aveva preferito uno dall'aspetto europeo, di lino bianco, ricamato con grandi cuscini della stessa stoffa. «Sei sicuro di voler fare questa spesa, Tao?» «Stai pensando alle Sing Song Girl?» «Sì». «Sei stata tu a dirmi che tutto l'oro della California non sarebbe sufficiente per comprarle tutte. Non preoccuparti, ce lo possiamo permettere». Eliza lo contraccambiava con mille delicate attenzioni. Discrezione, con cui rispettare il suo silenzio e le sue ore di studio, scrupolosità nell'aiutarlo in ambulatorio, coraggio nelle operazioni di riscatto delle bambine. Per Tao Qian, tuttavia, il miglior regalo era l'invincibile ottimismo della sua amica che lo obbligava a reagire quando le ombre minacciavano di avvolgerlo completamente. «Se continui a essere così triste, perderai le forze e non potrai più aiutare nessuno. Andiamo a fare una passeggiata. Tu hai bisogno di annusare un bosco. Chinatown sa di salsa di soia», gli diceva, e se lo portava in carrozza in periferia. Passavano la giornata all'aria aperta, scorrazzando come ragazzini. La notte che seguiva, lui dormiva beatamente e il giorno dopo si svegliava allegro e di nuovo in forze. Il capitano John Somers attraccò nel porto di Valparaiso il 15 marzo 1853, sfinito dal viaggio e dalle pretese della sua armatrice, il cui più recente capriccio lo obbligava a trascinare a rimorchio dal sud del Cile un pezzo di ghiaccio delle dimensioni di una baleniera. Visto che i prezzi di frutta e verdura erano molto diminuiti da quando l'agricoltura aveva iniziato a prosperare in California, le era venuta l'idea di produrre gelati e sorbetti. L'oro aveva attirato in 4 anni approssimativamente 250.000 immigranti, ma l'entusiasmo stava iniziando a scemare. Ciò nonostante, Paulina Rodriguez de Santa Cruz pensava di non muoversi più da San Francisco. Il suo cuore selvaggio aveva adottato quella città di eroici parvenu dove le classi sociali non esistevano ancora. Lei stessa supervisionava la costruzione della sua futura dimora, una casa in cima a una collina con la miglior vista sulla baia, ma era in attesa del quarto figlio e voleva partorire a Valparaiso, dove la madre e le sorelle l'avrebbero subissata di coccole e vizi. Suo padre aveva superato un opportuno attacco di apoplessia che gli aveva lasciato mezzo corpo paralizzato e il cervello rammollito. L'invalidità non aveva mutato il carattere di Agustín del Valle, ma gli aveva quantomeno insinuato il timore della morte e naturalmente dell'inferno. Andarsene all'altro mondo con una sfilza di peccati mortali non era una buona idea, gli ripeteva spesso quel suo parente vescovo. Del donnaiolo canaglia che era stato non era rimasta traccia, ma non in virtù di un pentimento, bensì in conseguenza del fatto che quel corpo ammaccato non poteva più reggere alle abituali scorrerie. Andava messa tutti i giorni nella cappella di casa e sopportava stoicamente le letture evangeliche e gli interminabili rosari che sua moglie recitava. Niente di tutto ciò, tuttavia, l'aveva reso più benevolo con i suoi dipendenti. Continuava a trattare la sua famiglia e il resto del mondo da despota, ma parte della conversione era dovuta a un repentino e inesplicabile amore per Paulina, la figlia assente. Si era dimenticato di averla ripudiata dopo che era fuggita dal convento per sposare quel figlio di ebrei, il cui nome non riusciva neanche a ricordare, tanto non era un cognome del suo livello sociale. Le aveva scritto chiamando la sua favorita, unica erede della sua tempra e del suo naso per gli affari, supplicandola di tornare al focolare perché il suo povero, povero padre desiderava abbracciarla prima di morire. «Davvero il vecchio sta così male?» domandò Paulina speranzosa in una lettera alle sorelle. Le cose non stavano affatto così e sicuramente avrebbe vissuto ancora parecchi anni per rendere la vita impossibile agli altri dalla sua sedia da invalido. A ogni modo, al capitano John Somers in quel viaggio toccò trasportare la sua armatrice, la sua maleducata prole, la servitù irrimediabilmente sofferente di mal di mare, il carico di bauli, 2 mucche per il latte dei bambini e i 3 cagnolini da compagnia con nastri alle orecchie, come quelli delle cortigiane francesi, che avevano rimpiazzato quello annegato in alto mare nel corso del primo viaggio. Al capitano la traversata sembrò eterna e la sola prospettiva di dover riaccompagnare a San Francisco Paulina e il suo circo nel giro di poco tempo lo terrorizzava. Per la prima volta nella sua lunga vita di uomo di mare, pensò di ritirarsi per trascorrere quel che gli rimaneva da vivere sulla terraferma. Suo fratello Jeremy, che lo aspettava sul molo, lo accompagnò a casa, dopo avergli porto le scuse di Rose, vittima di un'emicrania. Sai già, no? Si ammala sempre per il compleanno di Eliza. Non si è ancora rimessa dalla morte della ragazza, gli spiegò. Volevo proprio parlarvi di questo, replicò il capitano. Miss Rose non si era resa conto di quanto amasse Eliza finché non le era mancata. E allora aveva sentito che la certezza dell'amore materno era arrivata troppo tardi. Si incolpava per gli anni in cui le aveva voluto bene solo a metà, con un affetto arbitrario e caotico, per le volte in cui, troppo occupata nelle sue quisquilie, si era dimenticata della sua esistenza e quando se n'era ricordata aveva scoperto che la bambina era stata nel patio con le galline per una settimana. Eliza era stata quanto di più simile a una figlia avrebbe mai potuto avere. Per quasi 17 anni era stata sua amica, sua compagna di giochi, l'unica persona al mondo a toccarla. A Miss Rose il corpo doleva di pura e semplice solitudine. Sentiva la mancanza dei bagni con la bambina quando sguazzavano felici nell'acqua aromatizzata con foglie di menta e rosmarino. Pensava alle piccole mani di Eliza che le lavavano i capelli, le massaggiavano la nuca, le pulivano le unghie con un pezzo di pelle scamosciata e la aiutavano a pettinarsi. La sera rimaneva in attesa, con l'orecchio teso, pronto a cogliere i passi della ragazzina che le portava il suo calice di liquore all'anice. Si struggeva dalla voglia di sentire ancora una volta sulla fronte il suo bacio della buonanotte. Miss Rose aveva smesso di scrivere. E aveva completamente sospeso le serate musicali che prima costituivano il fulcro della sua vita sociale. Dimentica dell'antica civetteria, si era rassegnata a invecchiare senza grazia. Alla mia età, da una donna ci si attende solo che sia rispettabile e abbia un buon profumo, diceva. In quegli anni, dalle sue mani non uscì nessun abito nuovo e continuò a usare quelli di prima senza neanche accorgersi che non erano più di moda. La stanza del cucito era stata abbandonata e persino la collezione di cappelli e cappellini languiva nelle scatole perché quando doveva uscire optava per la mantella nera delle Cilene. Passava le ore rileggendo i classici o suonando al piano malinconiche melodie. Si annoiava con metodo e determinazione, quasi si trattasse di un castigo. L'assenza di Eliza si era trasformata in un buon pretesto per portare il lutto di tutte le pene e le perdite dei suoi 40 anni di vita, soprattutto della mancanza d'amore. Quest'ultima era la vera spina nel fianco, un costante dolore in sordina. Si pentiva di averla educata nelle bugie, non riusciva a capire perché si fosse inventata la storia della cesta con i lenzuolini di batista, l'improbabile mantellina di visone e le monete d'oro, quando la verità sarebbe stata ben più confortante. Eliza aveva il diritto di sapere che l'adorato zio John in realtà era suo padre e che lei e Jeremy erano i suoi zii, che apparteneva alla famiglia Somers e non era un'orfana accolta per carità. Ricordava con orrore quando l'aveva trascinata all'orfanotrofio per spaventarla. Quanti anni poteva avere? 8, 10? Era una bambina. Ah, se solo avesse potuto tornare indietro, sarebbe stata una madre molto diversa. Tanto per cominciare, invece di dichiararle guerra, l'avrebbe appoggiata quando si fosse innamorata. Se lo avesse fatto, ora Eliza sarebbe viva, sospirava. Era stata colpa sua se con la fuga aveva trovato la morte. Si sarebbe dovuta ricordare della sua storia e capire che le donne della loro famiglia venivano sconvolte dal primo amore. La cosa più triste era non poter parlare di lei con nessuno, perché anche mamma Fresi era sparita e suo fratello Jeremy, quando la menzionava, stringeva le labbra e usciva dalla stanza. La sua angoscia era contagiosa e negli ultimi 4 anni la casa aveva assunto un penetrante odore da mausoleo e l'alimentazione era talmente poco curata che Miss Rose si alimentava con tè e biscotti inglesi. Non era riuscita a trovare una cuoca decente e nemmeno l'aveva cercata con molto impegno. La pulizia e l'ordine la lasciavano indifferente. Nei vasi mancavano i fiori e metà delle piante del giardino si stava spegnendo per mancanza di cure. Per 4 inverni le tende estive a fiori erano rimaste appese senza che nessuno si fosse dato la pena di cambiarle a fine stagione. Jeremy non rimproverava la sorella, mangiava qualsiasi intruglio gli mettessero nel piatto e non diceva nulla quando si ritrovava le camicie mal stirate o gli abiti non spazzolati. Aveva letto che le zitelle pativano spesso di pericolosi turbamenti. In Inghilterra avevano sperimentato una cura miracolosa contro l'isteria che consisteva nel cauterizzare certi punti con ferri roventi, ma quei progressi non erano arrivati in Cile, dove per questi malanni si ricorreva ancora all'acqua benedetta. A ogni modo si trattava di una questione delicata, difficile da affrontare con Rosa. Non aveva idea di come consolarla. La consuetudine alla discrezione e al silenzio tra loro era ben radicata. Cercava di starle vicino con regali comprati sulle navi di contrabbandieri, ma di donne non sapeva nulla e si presentava con oggetti orrendi che sparivano immediatamente in fondo agli armadi. Non poteva certo immaginarsi le volte che sua sorella gli si era avvicinata mentre lui fumava in poltrona, sul punto di crollargli ai piedi, desiderosa di appoggiare la testa sulle sue ginocchia per dare fondo alle sue lacrime. Ma all'ultimo momento era indietreggiata, intimorita, perché tra loro qualsiasi moto d'affetto suonava come un ironico o un imperdonabile sentimentalismo. Triste e irrigidita, Rose salvava l'apparenza per disciplina, con la sensazione che solamente il bustino la stesse sostenendo, ma che una volta tolto sarebbe franata. Della sua gioia e delle sue monellerie non era rimasta traccia nemmeno delle sue opinioni azzardate, dei suoi gesti ribelli e della sua impertinente curiosità. Si era trasformata in ciò che più temeva, una zitellona vittoriana. È in fase di cambiamento. A quest'età le donne si destabilizzano, diagnosticò il farmacista tedesco che le prescrisse valeriana per i nervi e olio di fegato di merluzzo per il pallore. Il capitano John Somers riunì i fratelli in biblioteca per riferire loro la notizia. Vi ricordate di Jacob Todd? Quel tizio che ci truffò con la storia delle missioni in Terra del Fuoco? Chiese Jeremy Somers. Proprio lui. Era innamorato di Rosa, se non ricordo male, sorrise Jeremy pensando che perlomeno si erano evitati quel bugiardo come cognato. Beh, ha cambiato nome. Adesso si chiama Jacob Fremont e fa il giornalista a San Francisco. Però... Allora è proprio vero che negli Stati Uniti qualsiasi imbroglione può ricominciare da capo. Jacob Todd ha pagato più che a sufficienza per il suo errore. Mi sembra fantastico che esista un paese in cui viene offerta una seconda opportunità. E l'onore? Non conta? L'onore non è la cosa principale, Jeremy. C'è qualcosa di più importante? Ma perché stiamo a parlare di Jacob Todd? Immagino che tu non ci abbia riunito per questo motivo, John, balbettò Rose da dietro il fazzoletto impregnato di profumo alla vaniglia. Sono stato insieme a Jacob Todd, anzi Fremont, prima di imbarcarmi. Mi ha garantito di aver visto Eliza a San Francisco. Per la prima volta nella sua vita, Miss Rose credette di essere sul punto di svenire. Sentì il cuore galoppare, le tempie pronte a scoppiarle e un'ondata di sangue affluirle al viso. Per il senso di soffocamento non riuscì ad articolare nemmeno una parola. Quell'uomo non è minimamente attendibile. Non ci avevi parlato di una donna che aveva giurato di aver conosciuto Eliza a bordo di una nave nel 1849 e che non aveva dubbi circa il fatto che fosse morta? Ribatté Jeremy mentre camminava a grandi falcate per la biblioteca. Certo, ma era una prostituta. E portava la spilla di turchesi che io avevo regalato a Eliza. Poteva benissimo averla rubata e mentire per proteggersi. Che motivo potrebbe avere Jacob Fremont per ingannarmi? Nessuno, solo che è bugiardo di natura. Basta, per favore, supplicò Rose, facendo uno sforzo indicibile per far uscire la voce. L'unica cosa che importa è che qualcuno ha visto Eliza, che non è morta e che possiamo trovarla. Non farti illusioni, mia cara. Non capisci che si tratta di una storia fantasiosa? Per te sarà un colpo terribile scoprire poi che è una notizia falsa, la prevenne Jeremy. John Somers fornì loro i particolari dell'incontro tra Jacob Fremont ed Eliza, senza omettere che la ragazza vestiva abiti maschili e che in questi panni sembrava a suo agio, tanto che in un primo momento il giornalista non aveva messo in dubbio che si trattasse di un ragazzo. Aggiunse che erano stati entrambi nel quartiere cileno a domandare di lei, ma non sapendo che nome usasse, nessuno era stato in grado o aveva voluto dir loro dove abitasse. Spiegò che Eliza era andata senz'altro in California per riunirsi con l'innamorato, ma qualcosa doveva essere andato storto e non si erano trovati, visto che l'obiettivo della sua visita a Jacob Fremont era ottenere qualche informazione circa un pistolero dal nome simile. «Deve essere lui! Joaquin Andieta è un ladro! Quando se n'è andato dal Cile la giustizia lo stava cercando!» biascicò Jeremy Somers. Non era stato possibile celare l'identità dell'innamorato di Eliza. Miss Rose aveva dovuto anche confessare che era andata spesso a trovare la madre di Joaquin Andieta per avere notizie e che la disgraziata, sempre più povera e ammalata, era convinta che suo figlio fosse morto. «Non c'era altra spiegazione al suo lungo silenzio», sosteneva. Aveva ricevuto una lettera datata febbraio 1849, una settimana dopo il suo arrivo, nella quale le annunciava il progetto di dirigersi verso i filoni e le rinnovava la promessa di scriverle ogni 15 giorni. Da allora più niente. Era sparito senza lasciare traccia. Non vi sembra strano che Jacob Todd abbia riconosciuto Eliza fuori dal suo ambiente e vestita da uomo? Chiese Jeremy Somers. La conobbe che era una bambina. Quanti anni fa è stato? Almeno 6 o 7. Come poteva immaginarsi di trovare Eliza in California? È assurdo. 3 anni fa gli raccontai quanto era successo e mi promise che l'avrebbe cercata. Gliela descrissi nei minimi particolari, Jeremy. Inoltre il viso di Eliza non è mai molto cambiato. Quando se ne andò sembrava ancora una bambina. Jacob Fremont la cercò a lungo, fino a quando non gli dissi che probabilmente era morta. Adesso mi ha promesso di tornare a provarci. Pensa perfino di rivolgersi a un investigatore. Spero di potervi dare notizie più precise dopo il prossimo viaggio. Perché una buona volta non dimentichiamo questa storia? Sospirò Jeremy. Perché è mia figlia, maledizione! Esclamò il capitano. Andrò in California a cercare Eliza, l'interruppe Miss Rose alzandosi in piedi. Tu non andrai da nessuna parte! Esplose il fratello maggiore. Ma lei era già uscita. Per Miss Rose la notizia era stata un'iniezione di linfa vitale. Aveva la certezza assoluta che avrebbe trovato la figlia adottiva e per la prima volta in 4 anni aveva una ragione per continuare a vivere. Scoprì con stupore che le sue antiche forze erano intatte e acquattate in qualche luogo segreto del cuore, pronte a mettersi a sua disposizione, come era sempre accaduto. Il mal di testa sparì per magia, sudava e le guance erano rosse per l'euforia quando chiamò le cameriere per farsi accompagnare nella stanza degli armadi a cercare le valigie.